Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa di temi europei o di quello che i giornali europei dicono appunto sui nostri temi. E partiamo questa volta da un articolo apparso su Le Monde, tradotto da Internazionale, sull'ultimo numero, che si intitola Sentenza politica sulla privacy. Scrive l'articolista di Le Monde: per la seconda volta in meno di 18 mesi la più alta autorità giudiziaria europea ha ordinato al governo e alle aziende statunitensi di rispettare il diritto alla privacy stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Come la sentenza del 13 maggio 2014 che obbligava Google ad applicare il cosiddetto diritto all'oblio, ce lo ricordiamo tutti, quella emessa il 6 ottobre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul cosiddetto safe harbor, letteralmente approdo sicuro dei dati personali trasferiti agli Stati Uniti, è una chiara affermazione delle divergenze tra europei e statunitensi sulla privacy. L'articolo prosegue: non finirà qui questa questione, anche perché naturalmente le aziende americane devono A, adeguarsi e B, magari anche ricorrere se vogliono a queste decisioni, e non finirà anche perché, appunto, come sottolinea Le Monde, è proprio, ci sono due culture diverse sulla privacy e su come tutelarla, e sicuramente la rivoluzione digitale ha anche posto nuovi problemi. Non sappiamo di fatto quanto di quello che noi facciamo online viene captato, magari registrato, magari archiviato, e non sappiamo soprattutto se fidarci quando qualcuno ci garantisce il cosiddetto diritto all'oblio. Vedremo, insomma. A proposito di pericoli che corre l'Europa, ce n'è uno, secondo Financial Times, molto più serio di quello della privacy, ed è il pericolo di un populismo esagerato scatenato dalla questione delle migrazioni, di queste grandi migrazioni a cui stiamo assistendo. E Financial Times, che comunque è un giornale liberista, che quindi non, a volte, forse in passato qualcuno potrebbe dire, ha anche abbracciato alcune posizioni populiste dal punto di vista economico, ebbene Financial Times questa scorsa settimana proprio ha parlato del pericolo che il populismo del pericolo in cui il populismo mette l'Europa. La vignetta, tra l'altro, era proprio così, rifletteva questo spirito anche molto aggressivo di alcune affermazioni di leader populisti o dei loro partiti, con un filo spinato, al di là del filo spinato, una persona che col pugno alzato urla, chiaramente protesta, e al posto dei denti ha gli stessi, le stesse, non sono veramente dei denti ma sono come i componenti del filo spinato. L'articolo di Financial Times che trovate online iniziava così: le risposte di alcuni stati membri alla crisi dei rifugiati costituiscono una minaccia maggiore per il futuro dell'Unione rispetto alle crisi di Grecia e dell'euro. Negli ultimi anni, scriveva appunto il quotidiano della City britannica, l'Unione Europea è stata colpita da numerose crisi, ma nessuna ha costituito una minaccia per il futuro quanto il trattamento riservato dai suoi stati membri ai rifugiati che arrivano sul continente. Con la notevole eccezione della Germania, ricordiamo che proprio per questo atteggiamento della cancelliera Angela Merkel verso l'immigrazione e la decisione di accogliere più immigrati di quelli che sarebbe stato richiesto, addirittura si era parlato di una sua possibile candidatura o vincita del premio Nobel per la pace. Poi non è stata così, sappiamo che è andata al quartetto che ha cercato veramente di portare la democrazia in Tunisia, ed è un premio Nobel altrettanto importante. Però, insomma, per dire che appunto Financial Times ha le sue ragioni nell'indicare la Germania come paese che si è distinto in questo tentativo di accogliere i migranti anziché vederli come solo ed esclusivamente come un pericolo. Ecco, oltre a appunto quella che viene definita la lodevole eccezione della Germania, alcuni paesi hanno reagito nel migliore dei casi con indifferenza e nel peggiore con ostilità. Sulla questione dei migranti vi segnalo anche un articolo molto interessante del Daily Telegraph, in questo caso potete leggere in italiano collegandovi al sito voxeuropa.eu, che non mi stanco mai di citare, perché primo perché mi è molto utile, ma poi perché davvero ha aggiornamenti quasi giornalieri, anche pubblicando molte vignette che sono interessanti, a volte sintetizzano proprio una questione in un solo disegno e magari una piccola didascalia. Ecco, il voxeuropa.eu ha tradotto questo articolo del Daily Telegraph dove si parla di queste quattro richieste di Londra Londra farà all'Unione Europea per e vedremo se poi saranno soddisfatte. È un po' ricatto forse una parola grossa, però sappiamo che il primo ministro Cameron e un'importante parte dell'opinione pubblica della Gran Bretagna si sta interrogando sull'appartenenza all'Unione Europea. Si parla, ne abbiamo parlato anche noi tante volte, di Brexit, cioè di uscita della Great Britain dall'Unione Europea in questo caso, perché mentre per la Grexit si intendeva soprattutto l'uscita della Grecia dalla zona euro, la Gran Bretagna non è mai entrata nella zona euro, ha tenuto la sua preziosissima e amatissima sterlina, però dall'Unione Europea potrebbe in effetti, alcuni vorrebbero che uscisse, potrebbe in effetti uscire. E allora, secondo il Daily Telegraph, David Cameron ha quattro richieste. Primo, che la Gran Bretagna deve essere formalmente esentata dal principio di un'unione sempre più stretta, cosa poi voglia dire concretamente chissà. Secondo, che deve essere ufficiale che l'Europa è un'unione a più valute e che l'euro non è la sua moneta ufficiale. Terzo, allo scopo di restituire potere agli stati, gruppi di parlamentari nazionali devono poter fermare proposte di direttive e poter abrogare leggi europee già esistenti. Quarto, l'Unione Europea deve essere riorganizzata per impedire ai paesi dell'Eurozona di dominare gli altri. Protezioni particolari devono essere accordate, ma guardate un po' alla City di Londra. Questa è tutta un po' una supposizione del Daily Telegraph, però che David Cameron debba, anche per evitare di perdere voti, adesso le elezioni politiche ci sono appena state, lui è stato riconfermato, ma ci saranno elezioni amministrative, ci saranno comunque delle verifiche parlamentari. David Cameron ha deciso di tener conto di questo malumore che c'è all'interno del paese verso l'Unione Europea, quindi magari le richieste non saranno esattamente queste, magari punta così in alto, potremmo dire, per ottenere ovviamente un po' meno, però che sicuramente la Gran Bretagna voglia rinegoziare una serie di condizioni di appartenenza all'Unione Europea, è vero, quindi vedremo, naturalmente seguiremo tutte gli aggiornamenti del caso. Per guardare invece un po' a noi, a proposito di riforme, alla riforma del Senato, i giornali tedeschi hanno tutti dato conto di questa riforma del Senato che sapete è ancora in corso, è di approvazione definitiva, però sta facendo il suo iter parlamentare in un modo anche più veloce di quello che si pensasse. Allora la stampa tedesca appunto ha dedicato molto spazio parlando naturalmente di un, addirittura in certi casi, di un trionfo di Matteo Renzi. Il Tagesspiegel, un quotidiano tedesco non dei principali però comunque abbastanza letto, ha parlato di risorgimento. La Süddeutsche Zeitung ha parlato di tempi passati che possono essere archiviati, meno potere più potere per la Frankfurt Allgemeine Zeitung. Naturalmente il focus è proprio sull'idea che l'Italia con questa riforma abbandona il bicameralismo perfetto, di cui forse siamo uno degli unici esempi, siamo ancora uno degli unici esempi rimasti nel mondo occidentale, ci si avvia veramente a rendere una delle due camere più rappresentativa delle singole regioni. La Germania in questo potrebbe in realtà insegnarci molto, perché lo dico sempre, la Germania è uno stato autenticamente federale, cioè fatto da singoli Land, e che hanno poi tutta una loro rappresentazione parlamentare che differenzia le due camere del Bundestag. Ecco, la Germania infatti spesso viene anche presa come esempio da seguire. Vi segnalo anche dal Wall Street Journal un altro articolo che riguarda invece un'azienda italiana, comunque ancora in parte italiana, che è FCA, Fiat Chrysler Automobiles, che ha una questione aperta con l'Unione Europea sugli accordi fiscali. Sapete che le grandi multinazionali, anche le grandi multinazionali diciamo autenticamente americane come Google, hanno quelli che vengono chiamati problemi di elusione fiscale, cioè non sono tecnicamente degli evasori ma hanno plotoni di avvocati che si dedicano a trovare il modo migliore per non pagare tutte le tasse che dovrebbero nei tanti stati in cui sono attivi. Viene appunto definita elusione fiscale, in questo caso di queste pratiche è accusata anche FCA, e già appunto la settimana prossima, anticipava il Wall Street Journal, ci potrebbero essere novità su questo tema. Cambiamo tema, e abbiamo accennato alle elezioni britanniche, e tornando su internazionale vi segnalo un articolo sulle elezioni che ci sono state in Portogallo. I portoghesi premiano il governo dell'austerità, è un'analisi appunto del voto, forse un po' a sorpresa c'è stata questa vittoria del premier Passos Coelho alle elezioni del 4 ottobre scorso, che ha messo a nudo gli errori dei socialisti, che oggi sono a un bivio, secondo Diario Economico: seguire la sinistra radicale o rimanere una forza riformista. E anche queste sono questioni che insomma anche in Italia conosciamo bene. Il PD è ancora lì, che forse con Matteo Renzi appunto anela o forse riuscirà a diventare una forza riformista. riformista, ma sappiamo anche che in alcune regioni o in alcuni comuni, Roma in testa, la sinistra radicale, per esempio potremmo identificarla con SEL, proprio perché non vuole invece abbracciare il nuovo corso del centrosinistra più in generale, sappiamo che per esempio rinuncia a governare, esce da una giunta regionale o quando c'erano le province provinciali o comunale. Era un po' l'ultima segnalazione che riesco a farvi per questa settimana. Continuate a seguirci, quante questioni europee che ci riguardano direttamente o indirettamente, noi cercheremo appunto di monitorarle sempre per voi attraverso i quotidiani europei e non solo. Un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.